Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, ben ritrovato! Eccoci qua in questo 27 giugno, lunedì in cui alle spalle ci abbiamo tante quelle bombe esplose. Mamma che tutto mia. Sommato. Ah, bello quando. Sai quello bello odore di cordite? Ti ricordi il film? Quando ci sono proprio gli spari. Detto questo, 27 giugno, San Cirillo. Oltre a San Cirillo, tanti nomi di santi bellissimi, Santa Deodato, per esempio. San Ferdinando d'Aragona, figlio del re di Navarra, tanto per capire che non ci sono solo i santi poveretti. Santa Guddure, per esempio, Guddure, ma che non è sarda, ma è martire a Cartagine. E poi San Valero, San Zoilo di Cordova. Nella giornata odierna, tra le tante cose da ricordare, per esempio Kennedy, quando andò a Berlino, la famosa Ich bin ein Berliner, era del 1963, ma era il 27 di giugno. E tra le altre cose, nel 2006, in questo giorno, si respingeva in un referendum la riforma di costituzione di Berlusconi, gli italiani. Questo per tornare ai referendum dagli esiti, referendum. No? Quello invece di questo governo pare che stia sparendo dall'orizzonte, come se non l'avessero mai pensato e proposto, però no, dovranno farlo. Nel 1980 oggi cadeva il 19 di Ustica, ohimè, e nel 2007 si dimetteva Tony Blair, tanto per tornare alla Gran Bretagna. A proposito di Gran Bretagna, ma sai che Oscar circola proprio, è subito circolata, circolava prima del voto e circola poi da alcuni giorni dopo il voto, questa cosa strana, a parte gli isterismi in Italia per cui sembra che sia successo, che il Medioevo sia alle porte. Beh, devo dire che il giornalismo però dà una potente mano. No, però circolava anche questa idea per cui insomma, ma su queste cose no, non dovrebbe votare il popolo. C'è stata una reazione anche di molte persone che stimo, eccetera eccetera, dicendo i cretini che hanno votato, gli ignoranti questi. C'è stata anche questa vulgata, per esempio, i vecchi hanno tradito i giovani. Sapete qual è la sacca di maggior astensionismo che si è registrata in Gran Bretagna? Dai 18 ai 24 anni, soprattutto, non so, andate a votare, dai 18 ai 24 anni. Ma che sia un paese spaccato come tutte le decisioni. Non è che quando si vota ci sono delle, si chiamano cleavage in termini tecnici, però insomma delle linee di frattura tra constituency, no? Tra nord, sud, ci sono. A questo punto poi non è che però il suffragio universale va bene solo se i voti sono come uno dice da prima, infatti, no? la democrazia se solo no, se va bene. L'esamino a tutti prima di votare, ma non so quanti ce la fanno a superarlo. Comunque lo chiediamo ai nostri ascoltatori, insomma 800 24 0024, perché una delle cose di cui più si è discusse, cioè non dovevano votare, non deve votare il popolo su una cosa così importante. Meglio il popolo la ignorante. Costituzione che ci impedisce di votare, molti hanno detto in Italia. Che bella cosa, oh. Il popolo ignorante, ovviamente, certo. Ho dimenticato di però quando si tratta di pagare le tasse non siamo più ignoranti, siamo tutti buoni a pagare le tasse, perché c'è questa cosa. Vabbè, insomma, adesso ci vorrebbe l'esamino anche per pagare le tasse. È la materia sulla quale, insieme alla spesa pubblica e trattati, non possiamo fare referendum su questo, capisci? Le possiamo solo pagare, non possiamo discuterne. Questa è una cosa fantastica. E vabbè, comunque, insomma, che ne pensate di questa idea? Ovviamente adesso ci sono anche delle reazioni. Mi ha colpito molto quando in Scozia dicono la Premier non voteremo non ratificheremo in base alla nostra Costituzione, noi non ratificheremo l'Assemblea scozzese, non ratifica. Loro dicono non ratificando noi il governo di Londra non può a nome nostro anche attivare l'articolo 50 del trattato, cioè non può attivare la procedura per uscire. No, ma infatti detto che insomma non è così, no, non è così scontato tutto. Ma poi quello che si capisce è che la Gran Bretagna non aveva un piano, questo veramente, io amo la Gran Bretagna, ma però la figura da polli, cioè non avevano un piano concreto per decidere cosa fare dall'indomani mattina. E come evidente c'erano tutti quelli del Leave che volevano il Leave e metà del campo del Remain che voleva il Leave, a cominciare dal leader laburista, le cui mail parlano chiaro, perché dicono: ma insomma, facciamolo perdere Cameron. E infatti è quello che più rischia ora Corbyn, quello che viene considerato colui che non è stato in grado di saper gestire la situazione, ma no? Soprattutto che ha commesso l'errore, come Cameron l'ha convocato per rafforzare la sua leadership, lui ha giocato contro per rompere la leadership dell'avversario. Meno male che l'Italia poi, che antepone sempre la politica interna, come sì. Si vede la politica è più o meno sempre uguale. Comunque non succede il ritorno del Medioevo, lo dimostra secondo me anche, Oscar, molti lo dicono, il voto in Spagna, dove anche lì molti la hanno gente detto, si è spaventata. I cretini non hanno votato Podemos perché tutti erano già convinti che c'era Pablo Iglesias che diventava premier, e invece no. Le forze conservatrici hanno vinto, cioè conservatrici, forse... le forze moderate della stabilità di Mariano Rajoy, che comunque non può fare un governo, quindi siamo al punto in Europa che innalziamo per così dire, meno male, di un paese che non è in grado di fare un governo, e questo la dice lunga. Però forse il Medioevo può tornare, perché lo Stato torna nelle banche italiane. Io su questo sarò in minoranza assoluta. Su questo, Oscar, ti volevo proprio portare qui con i vieni qui, vieni, sì, vieni. Qua con il filo, che vieni mi vuoi qui. Tentare a un falò. No, non ti voglio tentare a un falò. Però giustamente i giornali, come ho letto la segna stampa, oggi raccontano questo. Sarebbe pronto un piano B del governo nel caso di, vedremo l'apertura delle borse tra mezz'ora, di crollo delle come banche. Come venerdì, a quel punto, a furia di non far niente, signori regolatori di Banca Italia, a ripetere che le banche sono solide, che ci pensava Atlante, ogni volta quelli come me, pochi come me, hanno detto: ma di cosa parlate? In Atlante non ce la può fare. State portando avanti la faccenda perché volete approfittare di un grande caos per dire all'Europa: da noi non vale la regola europea. Questi sono gli europeisti all'italiana. Cioè il bail-in. E saremmo in presenza di questo. Cioè, il governo sarebbe pronto, siamo all'indiscrezione, a entrare con capitali pubblici nelle banche e far sospendere il bail-in, perché i trattati dicono che in casi di eccezionali avvenimenti appunto, utilizzarlo come strumento. Questo potrebbe utilizzarlo come strumento, perché gli europeisti che danno lezione ai britannici sono quelli che avanzano più richieste di deroghe di quanto i britannici abbiano ottenuto dai tempi di Cesare in Britannia. Questa è l'Italia, cioè noi stiamo elemosinando più deficit e che i tedeschi ci paghino il debito, che i tedeschi ci consentano di far finta che non esistano i crediti deteriorati nelle banche. Io sarò minoranza assoluta, lo ammetto, perché so che anche in questo gruppo editoriale bisogna dire viva viva viva questa grande responsabilità nazionale. Mi sembra un atteggiamento da Pitocchi, va bene. Pitocchi, Pitocchi. Questa, con la T, non lo sentivo. Con la T, certo, Pitocchi. Abbiamo capito. Cioè, quelli che elemosinano dicevano: ma c'è la guerra, c'è una grande cosa. Sì, ma mi potresti dare l'aiutino? Ecco, questo è il pitocco. C'è la guerra, c'è vabbè. Allora, l'aiutino. Cari ascoltatori, però vi chiediamo appunto, ma insomma è giusto che abbiano votato tutti e che abbia votato, è un sintomo di democrazia quello che è successo in Gran Bretagna, oppure è stato un grave errore, perché non bisogna su questi temi così delicati e complessi far votare il popolo. O forse non è che le elite hanno perso proprio ogni contatto con come pensa la gente, perché questa è l'altra faccia della medaglia. Vabbè, ma è chiaro. Pinuccio ci chiama dalla provincia di Monza, giusto? Pinuccio, sì, buongiorno. All'anagrafe proprio Pinuccio. Prego? All'anagrafe, no, Giuseppe. Pinuccio. No, dai. Giuseppe, va bene. Pinuccio. Niente, io volevo dire che sono d'accordo affinché tutti non possano votare, per il semplice fatto che se lei prova a fare qualche intervista in giro, come ho provato a vedere in televisione, addirittura anche i politici chiedono qual è la capitale dell'Afghanistan, non sa rispondere, oppure dicono Afghanistan. Appunto, quindi, vogliamo che decidano i politici che ne sanno quanto noi, se non meno. Scusi. Un attimo. Negli Stati Uniti bisogna iscriversi per votare. Ecco, giusto. Okay. Giusto. È giusto che le persone debbano votare sappiano almeno chi è il Presidente della Repubblica. Cioè fare l'esamino, lei vorrebbe un piccolo esame, tre domande. Esatto, tre domande. Se io devo lasciare in mano il mio futuro a un ignorante, a un incompetente, a uno che vota solamente con la pancia e non sa votare con la testa, questo è deleterio per tutti. Questo ma non cosa dovremmo... Perché, guardi... Il suffragio è sempre universale, scusi se la interrompo, il suffragio è sempre universale. No, ma così non è universale. Non è universale. Per ponderato, pensato... Ponderato, come volevano, perdoni, allo suffragio universale. Al suffragio universale siamo arrivati nella storia dell'evoluzione delle assemblee parlamentari e del voto del diritto passivo e attivo, perché prima il voto censitario, e lei non sta proponendo quello. Poi l'argomento divenne, per tenerlo ristretto, beh, insomma, per titolo di studio è scolarizzato. E poi alla fine arrivarono i grandi filoni di impegno delle masse nella storia, i cattolici da una parte, i socialisti dall'altra, dicendo neanche per idea, perché questa è l'espressione dell'Italia minoritaria. Però Pinuccio non vorrebbe tornare né al voto per censo, perché né al voto per esami. Per esami, per cultura, il voto per cultura, Pinuccio, questo è, possiamo sintetizzarlo così. O perlomeno, se, a parte la cultura, cioè la conoscenza, cioè, che è importante, elevare l'età di voto a 25-30 anni, perché... come adesso si sposa a 40 anni per maturità, un ragazzo di 20 anni è ancora un preadolescente, lasciamo perdere per favore. Ah, 25, io voglio lasciare 30, il mio destino in mano agli incompetenti, agli ignoranti, perché la conoscenza è la libertà. Guardi che già nella politica contano molto di più gli anziani che vengono prepensionati rispetto ai giovani che gli paghiamo. Ma guarda che però questa, Oscar, è un'idea diffusa che appunto in questi giorni è stata è un'idea che esprime la paura di fronte al fatto che, come evidente, le classi digerenti, insomma, dirigenti, perdono sempre di più il contatto con la realtà, e a quel punto la gente dice paura, rafforziamogli la delega, mio Dio, mica vorremmo votare più. Ma ragazzi, io penso che forse bisogna ragionarci un secondo. Va bene, sentiamo che ci dice Sergio dalla provincia di Vicenza. Buongiorno. Buongiorno. Io non sono d'accordo su queste materie di far votare il cosiddetto popolo, tant'è vero che i nostri costituenti, che qualcosa sapevano, hanno proibito il referendum su materie di questo tipo. Sì. Ma se proprio dobbiamo far votare il popolo, mettiamo dei limiti. Uno, al numero dei votanti necessari, chiaramente, perché non possono andare a votare il 30% della popolazione, perché non ha senso. E due, superato questo limite, che deve essere un limite intorno al 60% degli aventi diritto, cioè neanche il 50%, ecco, mettiamo un limite al voto, cioè nel senso il voto al risultato, non va bene. Il 51 e il 49, non vuol dire nulla il 51 e 49. No, al limite il 50, limite, guardi, il 50... 51 vabbè, la maggioranza atto, qualificata 51 atto. Poi chiariamolo sempre, non vuol dire mai niente, al limite il 50 più un voto, che non è il 51, 50%, giusto perché non vogliamo essere ignoranti neanche in matematica, 50% più uno, ma lei lo metterebbe al 60, eppure no, con due terzi ha detto almeno due terzi, no, al 60 il non 50, non, per considerare valida quorum la votazione, validità, il quorum, perché e poi valga due il risultato terzi. Si devono dire, vabbè, insomma, Piero da Savona. C'è un'ondata di democrazia, di elitismo, vedo. Piero, buongiorno. Piero. Buongiorno. No, io sentendo queste due telefonate mi scappava un po' da ridere. Comunque volevo segnalare che alla prima telefonata, che se avessero votato solo da 30 anni in su, il LIV avrebbe avuto una percentuale ancora maggiore, almeno secondo i sondaggi. Sì, chiaro. Va bene, a proposito di informati, capito? Ecco, sì, quelli che fanno la lezione sull'informazione. Però vabbè. Comunque, volevo dire, no, vedendo quello che sta capitando questi giorni a proposito della Brexit, no, quello che si sente così, non solo conferma, ma aumenta ulteriormente la mia ammirazione verso quelli che scrissero il secondo emendamento della Costituzione americana e misero in guardia sui pericoli della tirannia, perché veramente si sta sentendo delle cose incredibili. Volevo dire, però, volevo sapere poi magari un vostro parere, discutendo due considerazioni, una su un scenario futuro e considerazioni sui media. Discutendo un forum, sezioni commenti, vari siti di giornali inglesi, no? Con attivisti pro-LIV, già prima del voto dicevano di stare attenti perché ci sono tecnicismi e cavilli vari che minacciano la volontà popolare, no? Dicevano appunto com'è. Non è che minacciano la volontà popolare, abbiamo detto varie volte che adesso parte una contrattazione in base al trattato. La procedura è lunga 50, e complicata, esatto. No, ma nel senso, adesso il referendum appunto è formalmente consultivo, l'ultima parola spetta al Parlamento, ci sono due anni per trattare l'uscita. Sì. Beh, basterebbe una manovra a tenaglia, no? Già si vede con la Scozia, che anche lì hanno votato per restare col Regno Unito. A quel tempo la UE era spaventata da vari indipendentismi e sapeva era abbastanza contrario a questo. Ohimè, il tempo. Piero, esatto. Io vorrei capire una cosa, perché altrimenti non diamo spazio agli altri ascoltatori. Non vorrei, caro Oscar, che mentre adesso già ci sono reazioni e ci sono state isteriche, oddio, torniamo al Medioevo, eccetera, non vorrei che alla fine di questi 2 o forse 5 anni di trattative e procedure, magari la cosa venga un po' annacquata e si urli tra 2 o 5 anni: oh, colpo di Stato! Ma non è così. Cioè, no, i processi democratici prevedono. Sono fatti di regole complesse. Non è bianco poi, o nero. Detto questo, adesso, no? Come vedete, è la Gran Bretagna per prima che intende prendersi tutto il tempo. Perché, ripeto, infatti, Cameron ha detto: adesso dobbiamo fare elezioni nuove. Se le elezioni le vince uno che vuole presentare l'articolo 50, lo farà. Io non lo faccio. E invece dall'Europa dicono: no, adesso in fretta. Juncker e i francesi, mentre i tedeschi più saggi dicono: anche gli italiani, prendiamo anche gli italiani. Cioè, c'è una distinzione tra chi è debole e vuole flettere i muscoli e tra chi è un po' più consapevole di unioni tedesche, no? Dopo decenni di separazioni, e dice: prendiamo tempo e in ogni caso garantiamo subito una clausola di paese associato, ma perché ci conviene ma limitare i danni. È consapevole che si può urlare per le 48 ore successive, ma poi dopo pragmaticamente ci si mette al tavolo e dice: ok, c'è un problema da oggi, vediamo di risolverlo e affrontarlo. Oggi mi ha fatto molto ridere un titolo di quella sera che diceva di Renzi, che è prossimo al vertice 3, che dice: basta parlare di Londra. Ma come basta parlare di Londra? Cioè, dai, su, basta parlare di Londra. Sentiamo Giovanni da Matera, se è rapido. Giovanni, che dobbiamo andare in pubblicità. Grazie. Buongiorno. Grazie. Dica, mi sentite? Benissimo, dica. No, io volevo rispondere giusto 2 secondi a quei due che hanno detto che dovrebbero votare solo la gente acculturata. Ma questi che vogliono? Ancora un taglio, una forbice ancora più larga tra ignoranza e... è colto. Cioè, io non riesco a capire questo allontanamento forzato che vogliono. Poi ci lamentiamo che alle votazioni, insomma, no, dicono persone che non sono informate su quello per cui vanno a votare, non dovrebbero votare. Ecco, ma anche questo. Sì, ma infatti, però voglio dire, la televisione parla a senso unico. Io una domanda sola volevo, io ho chiamato per questa cosa qua. Pare che la Scozia abbia votato in una larga percentuale, mi pare sui 65-68% per rimanere in Europa. Sì, pare. Okay. Sì. Fosse successo il contrario, okay, si sarebbero mosse tutti questi grandi politici a livello mondiale, quelli che veramente comandano, sarebbe successo il contrario, io questo mi chiedo. Cioè, se la Gran Bretagna avrebbe votato di restare, che invece una grossa percentuale in Scozia avrebbe votato di uscire a tutti i costi, si sarebbero mossi come si stanno muovendo da 3 giorni dalle elezioni. Ma lei dice se avesse vinto il Remain non ci sarebbe stata tutta questa questo è logico, perché rimaneva tutto come era, è ciò che volevano la maggior parte dei, come dire, governi. Non si sarebbero sconvolti i mercati, non ci sarebbero le attese terribili che adesso vedremo tra mezz'ora cosa succede. Ci troviamo il governo nella banca di nuovo, caro Oscar. Noi tra qualche minuto, dopo la pubblicità, avremo Renato Mannheimer, che ha scritto un libro per capire anche come libro. A proposito proprio delle cose di cui parliamo oggi, sondaggi, eccetera, e avremo il sindaco di Vimercate del Movimento 5 Stelle. Esatto. Poi dite perché. Vabbè, allora lo spieghiamo. Poi lo spieghiamo tra poco. Mi piace l'odore del napalm al mattino. Allora, caro Oscar, siamo qui. Ecco, alle 8.40 ancora non è entrato lo Stato nelle banche. Però attenzione, che tra 50 minuti forse uno, porto 4. Avanti, c'è altro. Che volete? Azione MPS, tiro un titolo a morte. Avanti, vieni qua. Guarda che la gente poi ti ascolta. Vuoi anche la testa del PD? Dammi un botto che io ti do l'MPS, non ti preoccupare. La gente poi ti ascolta e poi va preoccupata. Ma fa io bene a preoccuparsi. Va preoccupata oggi al proprio sportellista a dire: cosa sta succedendo? Che il Giannino mi ha detto che... Giannino però, a differenza di altri che dicono col tono tutto istituzionale, eccetera, eccetera. Sì, cioè, noi siamo gli europeisti che fanno saltare le regole europee. Questo che è bello, europeisti. Comunque, noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, stiamo chiedendo, ma davvero allora non doveva votare il popolo su una cosa così importante in Europa perché il popolo non è informato sui trattati internazionali? Vogliamo girare la domanda a Renato Mannheimer, sociologo, che ha scritto Demoscopia scoppiati l'Italia vista dai sondaggi. Professor Mannheimer, buongiorno e bentrovato. Buongiorno. Ci stavamo chiedendo questa domanda con Giannino. Sì, siamo scoppiati col punto interrogativo, però sono proprio scoppiati. Ma questa discussione su chi deve votare è una vecchia discussione in tutte le elezioni, da quando ci sono, da 20 anni la sento. Qualcuno dice che devono votare solo i laureati, qualcuno dice solo i colti, qualcun altro. C'è ogni volta, ogni risultato elettorale, c'è la tentazione di limitare il suffragio universale. No, ma il bello è, professore, che si scambia l'assenza di leader capace di parlare al cuore, oltre che al portafoglio e alle menti della gente, con l'incapacità della gente di saper scegliere. Cioè, il problema è questo: se non ci sono persone capaci di far vivere il significato positivo agli occhi e nei cuori della gente dell'Europa, non è che ci possiamo lamentare che anche in Italia, come sta scritto nel suo libro, infatti volevo che richiamasse il dato, anche gli italiani hanno perso verticalmente fiducia nell'Europa. Ma chi è che gliela spiega? Certo, in tutta Europa si è persa fiducia nell'Europa. Noi eravamo i più europeisti di tutti quando è stata inizialmente fatta l'Europa, e poi la fiducia è scesa, si è più che dimezzata, e adesso io ho fatto anche un sondaggio di recente chiedendo se vogliamo uscire dall'Europa e la maggioranza dice di no. No. Però non è stata campagna elettorale, attenzione, ed era prima della Brexit, quindi non si sa. È vera questa cosa dell'assenza di leader, la gente valuta sulla base di quello che gli appunto viene comunicato. Come lei spiega nel libro, e nei 10 giorni finali, e anzi anche nel giorno finale, che a seconda di quello che hanno sentito, molti decidono, perché non c'è più l'appartenenza ai partiti, è tutto cambiato. Ma che bravo, l'ha letto proprio bene, 30 e lode, l'unico lettore. Grazie, l'unico. No, ma tra l'altro, professor Mannheimer, nel suo libro lei si pone anche una domanda: ma gli italiani interessa la politica davvero? Cioè, sono appassionati, seguono le cose? E dà una risposta che è abbastanza... Insomma, quelli che si interessano davvero sono quelli che ci campano, che ci campano, dice il professore. Neanche tutti quelli che ci campano dicono che gli interessa. Qualcuno ci campa senza gli interessa. È che la politica viene vista come una cosa estranea alla propria vita. Dice: io sono qui, cerco lavoro, cerco di campare, e la politica cosa c'entra? Si mette come ostacolo. La politica viene spesso confusa con burocrazia. Anche gli inglesi hanno confuso Europa con burocrazia. Sì. Forse avevano ragione. Però forse professore, no. Questi sono sondaggi, io non li metto in discussione, sì, anche se alcuni li mettono in discussione. Però io vedo, non so, nella mia esperienza quotidiana, se chiedo, ci sono persone che mi fanno domande, mi dico: ma tu cosa ne pensi, perché io sono andato a sentire quel candidato? Ci sono persone che in realtà si appassionano, ci credono, pensano di incidere. Specie quando c'è la campagna elettorale, è che sono grosso modo durante la campagna elettorale si interessa di politica 1/3 delle persone, e noi tre frequentiamo solo quelle. Esatto. Ma poi ci sono tutti gli altri, siamo noi che continuiamo a guardare politica sui giornali, forse facciamo male. Non che forse, le pagine dovrebbero essere appese nelle segreterie dei direttori e nei loro uffici dei direttori generali, perché quando lei dice: guardate qual è la percentuale davvero di chi legge le vostre pagine, che continuate a scrivere ogni giorno sulla politica, ecco, il motivo per cui poi si perdono copie è quello, è quello, assolutamente. Quello è un altro problema. Non legge più, salta le pagine di politica, ripeto, solo noi tre le leggiamo, e va a guardare altro. Lo sport attira molto, la cronaca, i delitti, la politica viene vista come estranea alla gente. Lì è un altro problema, anche che io ho sempre semplificato così, dicendo visto che ci sono diversi colleghi nei giornali, licenziarli non si può, e quindi... C'è un'inerzialità deriva dalla serqua di colleghi. Però, professor Mannheimer, noi, caro Oscar, abbiamo chiamato e convocato anche un sindaco. È il sindaco di Vimercate, provincia di Monza e Brianza. E noi l'abbiamo del Movimento 5 Stelle. Naturalmente presentiamo i nostri ascoltatori. Francesco Sartini. Buongiorno. Francesco Sartini. E perché buongiorno l'abbiamo chiamato, Oscar? E l'abbiamo chiamato per due ragioni. La prima è che, siccome era passato il cliché che in Lombardia in realtà tutti i capoluoghi sono il PD, era la regione in cui il PD faceva eccezione ai risultati altrove negativi, da una parte, e dall'altra questo faceva riscontro alla crisi della Lega. Va bene, però non è che in Lombardia non ci sono anche grandi città, grandi centri in cui i 5 Stelle hanno avuto il risultato che hanno avuto altrove in Lombardia. E quindi, siccome Vimercate non è proprio esattamente un comunello, abbiamo chiamato il sindaco di Brescia, di Vimercate, per questo. E poi anche per un'altra cosa, perché io un po' lo conosco il profilo del sindaco, l'ho seguito negli anni, e questo a testimonianza che poi nei 5 Stelle ci sono culture, tragitti, persone che hanno diverse, perché 5 Stelle è diventato un partito trasversale, cioè che raccoglie opinioni e culture e sensibilità diverse. Queste sono le due ragioni. Vediamo cosa ne pensa il sindaco, però. Abbiamo sbagliato su queste due ragioni? Buongiorno, buongiorno. Non credo che abbiate sbagliato. Il movimento alla fine raccoglie persone, quindi le persone portano il loro approccio culturale, la loro formazione, la loro voglia di fare, le loro intenzioni. Poi attraverso un percorso di partecipazione vengono conosciute dai ma nel suo caso lei che sensibilità, che esperienza culturale fa? Lei viene dalle ACLI, ho letto, no? In realtà c'è una cattolica, però diciamo siamo cugini, assolutamente. Da giovane ho avuto modo di sfruttare questa formazione, partecipare ai campeggi, a livello diocesano ho anche preso un incarico come vicepresidente, ed è stato un momento umano molto formativo, anche diciamo non solamente umano, anche diciamo il suo rapporto di fiducia, tornando a ciò che ci diceva Mannheimer, con la politica tradizionale dei partiti eccetera, quando si è incrinato, perché? Ma si è incrinato circa 6 anni fa, quando ci sono stati episodi sul mezzo di informazione pubblica che hanno dimostrato che ci sono persone che, pur di convincere che stanno operando bene, sarebbero stati disposti a venderci l'inverosimile. Io parlo ai classici episodi di case regalate a propria insaputa, piuttosto che chiare manovre politiche fatte per proprio tornaconto, senza un minimo di ritegno, di giustificazione. L'accumularsi di tutta una serie di questi elementi ha fatto sì che fossi talmente sfiduciato nei confronti dei partiti tradizionali e soprattutto delle persone che erano arrivate ai vertici, che quindi dimostravano di averle in pugno, che avevo quasi deciso di non votare più per nessuno, quindi di rinunciare al diritto al voto. Non sono una persona che è disposta però a rinunciare. In quel momento politicamente forse ho toccato il fondo. Ho preferito fare un passo avanti. No, perché guardi, cito questo sindaco. Oggi su Libero viene intervistato Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle. E proprio la domanda: perché fa politica? Dice: faccio politica per togliere questo paese dalle mani di chi l'ha distrutto facendo i propri interessi. Mi sembra che sia un po' il percorso che ci sta raccontando lei. Esatto, anche se al tempo non conoscevo Alessandro Di Battista. L'ho fatto perché iniziavo a avere famiglia, figli piccoli, e sinceramente non mi andava più di lasciare questo paese in mano a persone che avevano quel tipo di comportamento. La reazione è stata quella: bene, se pensi di essere più bravo di loro, mettiti tu in corsa. E quindi ho iniziato a cercare nel mio piccolo di far politica, farmi conoscere, cercare di aggregare cittadini che la pensassero come me. Abbiamo tirato su un gruppo che oggi è arrivato a questo risultato. Esatto, sindaco a Vimercate, che non è una cosa, diciamo, da poco. Da quanto c'era il PD, se non sbaglio, prima? Comunque il centrosinistra a Vimercate? Da circa 20 anni. Da 20 anni, ecco. Poco meno. Qui, insomma, come tutti i fenomeni che ci sono di concreazione di potere, quando insomma diventa una specie di cosa a senso unico. Lei cosa pensa, signor sindaco, di chi dice all'indomani dei risultati che scuotono le convinzioni precedenti delle elite e dei sondaggi eccetera eccetera, e come nel caso del Regno Unito su Brexit fanno poi dire a tutti: ma insomma sarebbe meglio non votare, come previsto nella Costituzione italiana, su temi di questo tipo? La gente è ignorante, non si informa. Che pensa? Ma se la gente non si informa, credo che la colpa sia da due parti: da chi l'informazione dovrebbe consentire che fosse fruibile, quindi da chi l'informazione deve portarla verso i cittadini, e da parte dei cittadini invece, che devono fare anche uno sforzo per cercare di andare a prendersela questa informazione. Non ascoltare i cittadini, secondo me, è sempre un errore. Per cui non la vedo come un dramma il fatto che i cittadini si siano espressi. Forse appunto chi ha in mano le decisioni politiche avrebbe dovuto pensare di più ai propri cittadini in termini di coinvolgimento. Esatto, soprattutto far vivere scelte che hanno impatto così profondo, visto che poi più della regolamentazione nasce in Europa, questo esatto. Ricordiamocelo, per dire alla gente: ci sono buone ragioni. Ma se tu non gliele dici le buone ragioni, o non ci sono, oppure sei tu che non sei all'altezza. Cioè... Sentiamo, caro Oscar, e ascoltatori, eccoci qua, sentiamo anche Davide che ci chiama da Firenze. Buongiorno, che ne pensa? Buongiorno, Davide? Buongiorno. Rispondevo a alcuni ascoltatori e anche a qualche intervento c'è stato negli scorsi giorni, dicendo che a seguito del voto della Brexit è necessario limitare il suffragio universale. Sì. Io ho 31 anni, E mi sembra che queste persone, queste elite, siano state sconfitte dal voto Brexit, e quindi è un problema loro, cioè un problema che non hanno parlato ai cittadini, hanno fatto vedere quali sono i risultati che ci sono, che ha fatto l'Unione Europea. Io sono stato amministratore, consigliere comunale nella mia città, e il bilancio armonizzato è una cosa che ci ha dato l'Europa, e ha messo in regola i conti di molti comuni, quindi è una cosa lodevole che ha fatto l'Unione Europea per noi italiani e per, penso, tante amministrazioni e tanti cittadini. Però non lo, come diceva prima anche il sindaco, non viene comunicata questa cosa, e nessuno ne sa. E quindi il problema è l'Europa stessa, che deve comunicare meglio e deve parlare meglio alla gente, ed è una sconfitta dell'Europa. Non è che l'Europa, viene sconfitta, lì riduce la libertà dei cittadini, se no è un circolo vizioso che andrà sempre contro i cittadini stessi e contro me stesso, che ho 31 anni e vorrei ci fosse un'Europa più, diciamo, democratica, aperta, e non che mi limiti anche la mia libertà. Già non avrò la pensione, poi mi limiti anche la libertà, che mi rimane? Rimane niente. La ringraziamo, Davide. No, qui abbiamo un minuto per concludere. Noi, caro Oscar, non resta che ringraziare i nostri ospiti. Ricordiamo Renato Mannheimer, Demoscopiati, ma col punto di domanda. Demoscopiati, leggetelo, cari ascoltatori. Demoscopiati, ritare vista dei sondaggi, perché scoprirete perché i sondaggi non è colpa di chi li fa, dice, non fidatevi. Spesso è chi, il committente, paga poco, e quindi da questo deriva il campione come fatto, la metodologia come fatto, e si sgarra per quello, non perché chi li fa è un cretino. Scusate se difendo la categoria, professor Mannheimer. La ringraziamo, come ringraziamo il sindaco di Vimercate, Monza e Brianza, del Movimento 5 Stelle, Francesco Sartini. E naturalmente tanto... tutti pronti, c'è un rombo alle 9.30, si capisce se il rombo significa che lo Stato rientra nelle banche italiane. Ma speriamo, no, di che no. Poi il Giannino, speriamo, guarda, di no. Guarda che il Giannino mi ha detto che dobbiamo andare in banca a ritirare tutti i soldi. Andate in banca, a ritirare, guardate tutti sugli soldi. Schermi cosa succede. Meglio dopo ci terrorizzi le persone. Ciao, mi a domani. Mi piace l'odore del napalm. Eccolo qua. Eccolo qua, a domani.